nascosta all'interno di Lo Scorrenta. Voi dite oggi è festa, primo maggio, magari non c'è. No, invece c'è. Ladies and gentlemen, è arrivato il programmino di Gigi D'Agostino. Su Radio Italia Network, Gigi D'Agostino. Ogni giorno tutto intorno, se c'è musica è un buon giorno. Yeah. again. Attention. Calculations green. We start the countdown. Attention. It's T-minus 10 seconds. Attention. We start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. 40. Radio Italia Network. Musicale, standardizzare.

A volte non serve un'ora, basta mezz'ora. 4:15, 5:15. E il programmino che ascolta anche il mio sardo. E grazie ancora a Gigi D'Agostino che è stato con noi anche oggi con il suo programmino, che ritroviamo naturalmente domani sempre dalle 4:15 alle 5:15. Andiamo avanti.